Venerdì pomeriggio, 17:30, 4 settembre. Sara arriva all'aeroporto di Firenze. Signorina, scusi, lei è della Top Qual? Top Qual, sì. Allora, è la signorina Jenkins, vero? Sì. Buonasera e benvenuta a Firenze. Mi chiamo Lorenzo Conti, di Italia Bella. Italia... Oh, yes, yes. Lei parla inglese, Mr. Conti? Sì, un po'. E lei parla italiano? Solo un po'. Va bene, non importa. L'italiano è facile, per fortuna. Oh, I'm sorry, I don't understand. Si dice non capisco. I don't understand. I understand. Capisco. Ok, capisco. Brava. Ma come si chiama di nome? Sara. Ah, Sara. Allora, piacere, Sara. Piacere. Che significa? Significa pleased to meet you. Piacere. Ah, piacere Lorenzo. Ha fame? Vuole mangiare qualcosa? Oh, no, grazie. I'm a bit, come si dice? Tired. Stanca. Ah, sì. È stanca. Andiamo all'albergo. Grazie. Di niente. È questa la sua valigia? Sì, grazie. Andiamo.